I colori dell'anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. Buonasera amici di Radio Alma e benvenuti ad una nuova puntata di I colori dell'anima, il programma che parla di noi, di tu, io e le persone che ci stanno vicini o più lontani. Oggi parliamo di solidarietà internazionale, cioè delle iniziative che mirano a ridurre la povertà e le ingiustizie nel mondo e di quello che ne pensano gli italiani soprattutto. Se avete la voglia, se avete voglia di dirci la vostra, contattateci via colori.anima@gmail.com o via il numero di telefono 02345 2656. Stasera come al microfono c'è la voce calda ma la lingua tagliente di Donatella. Buonasera Donatella. Buonasera Uland. Come va? Tutto bene, tu come stai? Bene. Siamo pronti? Senti, il colore di questa seconda puntata di I colori dell'anima è rosso, giusto? Eh sì, come hai detto tu, molto tagliente. Infatti facciamo una puntata questa sera incentrata sul colore rosso. Come ti puoi immaginare, perché appunto questo colore così particolare? Ma scusa, faremo una puntata sul Campari, non lo so, sulla Ferrari, sul comunismo, non lo so. No, qualcosa diciamo di un po' più impegnato. Infatti il rosso di questa puntata è un rosso allarme, un rosso che potremmo dire è un rosso semaforo, perché forse è arrivato proprio il momento di fermarci un attimo e guardare che cosa succede alle persone meno fortunate intorno a noi. Persone che quasi non ci si crede, ma nel 2010 ancora muoiono di fame. Ne parleremo appunto dopo il primo brano di questa puntata, un brano molto speciale di Mina, Rosso. Eccoci di nuovo in studio dove parliamo di povertà e di fame nel mondo. Ma non è notizia recente che nel mondo le persone che soffrono la fame sono diminuite, Donatella? Infatti, in realtà credo che tu fai proprio riferimento al rapporto pubblicato recentemente dalla FAO. Ah, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Esatto, l'organizzazione che si trova a Roma. Ti dicevo appunto che secondo questo rapporto recentemente pubblicato dalla FAO, coloro che soffrono la fame sono in diminuzione. Infatti sembrerebbe che la cifra iniziale di 1.300.000.000, un dato registrato nel 2009, scende ai 925 milioni oggi. Quindi potremmo dire delle cifre sicuramente incoraggianti quelle contenute in questo rapporto, ma pur sempre lontane anni luce dall'ambizioso obiettivo di dimezzare la sottonutrizione dell'umanità entro il 2015. Ma dici un po', Donatella, dove nel mondo ci sono più persone che hanno fame? Certo, questo in realtà con precisione forse non lo sapremo mai, però in base a quanto pubblicato dal rapporto, la percentuale più alta di persone che soffrono la fame si registra in Bangladesh e a seguire Cina, Etiopia, India, Indonesia, Pakistan e infine Repubblica Democratica del Congo, paesi che in realtà contano da soli i 2/3 di tutti coloro che soffrono la fame. Ah, ma è abbastanza sorprendente che c'entra pure la Cina, nonostante il suo forte sviluppo economico. Ma secondo la FAO, che cosa bisogna fare per risolvere il problema della fame? Beh, la soluzione sicuramente non è così facile a portata di mano. Diciamo che per arginare il problema bisogna investire maggiormente nell'agricoltura, nei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, e a rendere operativi programmi di assistenza, stimolare attività che producano il reddito, quindi a livello di microattività, microimpresa. Il tutto, certo, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, che tenga conto quindi di una più equa distribuzione delle risorse di cibo e acqua su tutta la terra. Infatti, la critica delle maggiori organizzazioni non governative allo sviluppo, dopo l'uscita del rapporto, era proprio questo. Cioè? Dicevano che la diminuzione della fame quest'anno è soprattutto dovuta al caso, vedi per esempio un buon raccolto agricolo, invece che alle politiche messe in atto. E con questa nota passiamo alla musica di Gianna Nannini e Giorgia e torniamo dopo questa bella canzone Salvami per parlarvi di povertà e solidarietà internazionale. Eccoci di nuovo in studio, buonasera a tutti i nostri cari radioascoltatori da Donatella e da Wulan che ci accompagna in questa serata in regia. La puntata di questa sera, I colori dell'anima, si tinge di rosso. Rosso perché parliamo della fame nel mondo e quindi questo rosso vuole essere come lo stop di un semaforo, che vuole quindi farci fermare non soltanto a riflettere e a pensare a tutti coloro che intorno a noi soffrono ancora nel 2010 questo gravissimo fenomeno che è appunto la fame. Ma Wulan, secondo te gli italiani cosa ne pensano al riguardo? Diciamo che un intervistato su due, quasi il 45%, ritiene prioritario destinare aiuti ai paesi in sviluppo in favore di progetti di sviluppo nei paesi d'origine degli immigrati. E vedo che ho fatto appena una enorme gaffa. Eccoci qui! Giustamente, ci voleva... perché sono veramente sulla pagina sbagliata e stavo un attimo facendo altre cose. Allora, vabbè, non si vai ascoltato, mi ci perdoneranno, in realtà siamo dei provetti alle prime armi. Allora aiutami tu, Donatella, che cosa ne pensano gli italiani, così io nel frattempo cercherò la pagina giusta. Infatti appunto questo tema ricorre proprio perché nella settimana precedente al vertice delle Nazioni Unite, dove i capi di Stato e di Governo si sono incontrati per trovare soluzioni per combattere fame e povertà, in Italia usciva appunto la quarta edizione di uno studio molto famoso che è chiamato il Barometro della Solidarietà degli Italiani. Uno studio, una ricerca che è condotta dalla DOXA, l'Istituto per le Ricerche Statistiche, e che viene promossa da un'organizzazione non governativa italiana, la FOCSIF, una federazione di 64 organizzazioni non governative e cristiane di servizio internazionale e volontario. Quindi possiamo dire che il barometro sonda annualmente l'opinione degli italiani sulla cooperazione internazionale. E dici un po', Donatella, quali sono i risultati di questo sondaggio? Ecco, diciamo che nonostante la crisi economica e finanziaria, la ricerca ha evidenziato che in quest'ultimo anno la propensione degli italiani a sostenere in prima persona le iniziative solidaristiche nazionali e internazionali non è venuta meno. Infatti il 44% degli intervistati ha effettuato una donazione, il 33% più di una donazione addirittura. Ah, ecco. E dimmi un po', Donatella, quali sono le questioni che stanno più al cuore agli italiani? Beh, diciamo che le questioni sono piuttosto varie. Possiamo dire che la lista delle emergenze che dovrebbero essere affrontate il prima possibile riflette quelle che sono poi le maggiori preoccupazioni della società contemporanea, vale a dire disoccupazione, fame e pace nel mondo sono infatti le prime due nell'elenco, indicate rispettivamente con il 57, il 40 e il 34% degli intervistati. E gli italiani a chi versano questi soldi? Bella domanda. Secondo appunto questo studio, il barometro, ripetiamo, che appunto sonda l'opinione annualmente degli italiani, gli italiani indicano come beneficiari cosiddetti privilegiati, quindi appunto i destinatari preferiti, le associazioni di volontariato e le cosiddette ONG, cioè le organizzazioni non governative, con il 73% di preferenza, che per la prima volta in realtà in 10 anni superano le organizzazioni internazionali, che erano state invece al primo posto nell'ultimo decennio. Allora ascoltiamo un brano e dopo una bellissima canzone, un'altra bellissima canzone italiana, torniamo a parlare di questo argomento. Cosa che per me è importante. Il tiro mancino per me è importante, bellissima canzone italiana. E torniamo in studio dove abbiamo provato a parlare di fame e solidarietà internazionale e ho subito fatto una bella gaffe perché mi mancava una pagina. Invece siamo tutti e due sulla stessa pagina adesso, Donatella e io. Ciao Donatella. Finalmente, meglio tardi finalmente che mai. Ecco. E insomma, prima dicevi che gli italiani preferiscono dare i soldi che danno in beneficenza a delle ONG internazionali. E la domanda è adesso, come andrebbero utilizzati questi soldi secondo gli italiani? Allora, in realtà, giusto per essere precisi, ci stavamo appunto riferendo a un rapporto recentemente pubblicato in Italia, la quarta edizione del Barometro della Solidarietà degli Italiani. Esatto. Come detto prima, appunto, una ricerca che viene condotta dall'Istituto per le Ricerche Statistiche e viene promossa da una serie, esattamente 64, organizzazioni non governative cristiane che si occupano di servizio internazionale volontario. Come dicevamo prima, appunto, uno degli elementi chiave di questa inchiesta è appunto che gli italiani indicano come beneficiari privilegiati le associazioni di volontariato e le ONG, per esattamente il 73%, che appunto per la prima volta superano in 10 anni le organizzazioni internazionali, che invece prima erano proprio il punto di interesse degli italiani. Esatto. Per quanto invece riguarda la destinazione di questi fondi, potremmo dire che quasi un intervistato su due, esattamente il 45%, ritiene priorità in favore dei paesi di origine calda, direi. Beh, in realtà sì, infatti l'83% degli italiani considera la popolazione straniera presente in Italia, come dire, un po' eccessiva. E proprio in considerazione di quanto dicevi tu prima, il 78% degli italiani ritiene che gli aiuti destinati ai paesi di provenienza siano in effetti il mezzo più efficace per ridurre il flusso delle migrazioni verso l'Italia. Ma la domanda importante a questo punto è: ci sono delle prove a riguardo? Perché secondo diverse ricerche questa percezione rispecchia una conoscenza distorta del fenomeno. Innanzitutto, ipotizzare una riduzione dei flussi mediante maggiori aiuti nei paesi di origine è smentito dalle tendenze statisticamente riscontrate, secondo le quali il miglioramento porta migratori e fuorvianti che amplificano e strumentalizzano sentimenti e reazioni connaturate con la paura del diverso. La paura del diverso, ne discuteremo sicuramente ancora in questo programma, direi nella seconda parte. Per il momento però vorrei ancora riportare l'attenzione sulla fame e appunto sul summit di cui parlavamo prima, che si è tenuto riguardo gli obiettivi del millennio qualche settimana fa. Infatti, Donatella, a settembre, cioè tra il 20 e il 22 settembre, i leader dei più importanti, anzi di quasi tutti i paesi del mondo, cioè sia del nord e del sud, si sono incontrati a New York per parlare di come combattere efficacemente la povertà. Sappiamo tutti che alcuni progressi sono stati fatti, ma alla fine c'è molto poco per italiano sulla solidarietà. Un progetto di organizzazioni cattoliche italiane, e insomma c'è questa intervista con il padre John Patrick Ngoi Kasongo, che vive in Nigeria, e ci parla di quello Ma che aspetta, pensa lui. Puoi dirci qualcosa di più di questo padre dal nome così, diciamo, impronunciabile, direi? Certo. Allora, padre Ngoi Kasongo lavora in Nigeria con la Chiesa su progetti di solidarietà, e quello che fanno è monitorano l'operato del governo e dopo propongono delle soluzioni alternative, delle politiche buone da farsi, e provano a farsi ascoltare, che è una cosa magari per noi può sembrare una cosa un po' strana, scontata ma non è facile in Nigeria farsi sentire al governo. E allora molto pieno di idee per il suo continente, idee concrete che vorrebbe lanciare con un po' di aiuto magari da chi può farlo. E allora parla degli obiettivi del millennio in questa intervista a Vita. Donatella, ci puoi dire magari un passaggio del suo pensiero? Sì, infatti, facciamo riferimento ad un piccolo estratto dell'intervista, dove appunto si chiede al padre: a tenere banco in questi giorni è stato il summit sugli obiettivi del millennio. Che speranze ci sono di raggiungerli entro il 2015? E padre Ngoi risponde che più di speranza si dovrebbe parlare di volontà, nonostante i progressi registrati in alcuni paesi obiettivi, non c'è la volontà politica di raggiungere gli obiettivi nel 2020, tralasciando invece la qualità dei servizi offerti. Quindi diciamo l'attenzione è tutta sul lato quantitativo e si tralascia quasi completamente, come dice lui, l'aspetto qualitativo. Infatti lui prende per esempio l'educazione. Molti si vantano del fatto che in Africa il numero dei bambini iscritti alla scuola elementare è in netto aumento, ma pochi ammettono che a farne le spese è stata la qualità dell'insegnamento, che è abbastanza, ma fa pensare, insomma. Vabbè, questa poi d'altronde è sempre un elemento centrale nelle politiche di sviluppo, qualora appunto si tende sempre, come almeno per primo passo, cercare di portare perlomeno i bambini nelle scuole e in un secondo momento quindi cercare di spostare l'attenzione dal quantitativo al qualitativo. Sì, però ci porta davanti a un dilemma e Pangoi lo descrive molto bene, perché dice: questo dilemma ci rimanda alla questione se gli aiuti sono importanti, non può dipendere solamente dalla buona volontà di chi aiuta. Non c'è infatti una cifra che possa generare lo sviluppo al singolo essere umano. La soluzione, secondo Padre Ngoi, sta nella capacità delle persone a mobilitare le proprie risorse. Poi, certo, devono cambiare le regole del commercio internazionale, che ancora oggi colpiscono i paesi più poveri. E Padre Ngoi dice anche che bisogna smetterla con l'esportazione di materie prime e l'assenza di trasferimento tecnologico sul continente. Magari sull'esportazione di materie prime è importante segnalare che le multinazionali che operano per esempio in Africa, in Nigeria ovviamente c'è molto olio, il loro operato spesso non è del tutto o forse per niente trasparente, e ci sono enormi somme di denaro che fuggono dal continente senza che ci siano delle cifre altissime con cui si potrebbe sviluppare benissimo il continente africano. Anima, un buonasera da Donatella e da Roland che ci accompagna in regia. Buonasera ancora, sono contento che siete tutti con noi. Dici che nessuno è scappato? Speriamo di no, dai, ci permetteranno qualche errorino agli inizi, giusto? Lo speriamo tutti. Allora, i colori dell'anima questa sera si tinge di rosso, non rosso Campari, non rosso Spritz, ma il rosso del semaforo contro la fame del mondo. E ripercorriamo magari velocemente insieme le tappe di questa puntata. Abbiamo parlato infatti della riduzione stimata della fame nel mondo, secondo un rapporto recentemente pubblicato dalla FAO, secondo il quale appunto il numero di persone che soffrono la fame nel mondo si è ridotto diciamo drasticamente, o comunque secondo una percentuale abbastanza significativa. Però abbiamo anche detto che alcune organizzazioni, tra le più importanti, le organizzazioni non governative, hanno detto che alla fine questa, diciamo, è un guadagno che si, insomma, il numero è sceso solo grazie al caso e magari un buon anno agricolo, un buon anno per la raccolta agricola, e invece non grazie alle politiche messe in atto per raggiungere degli obiettivi sostenibili nel tempo. Esatto, questo diciamo che ci porta nel secondo tema della serata, che è quello degli aiuti, e in particolare non gli aiuti, i grandi aiuti degli stati, ma gli aiuti che ognuno di noi in qualche modo fa. Recentemente si vedono spesso gli sms in TV, che sono diventati quasi una forma, diciamo, moderna di contribuire e sostenere delle cause nei paesi più poveri. E ci sono persone che periodicamente o annualmente contribuiscono attraverso dei fondi a delle organizzazioni non governative, organizzazioni che si occupano di aiutare il prossimo nei vari paesi più sottosviluppati del mondo. Sì, infatti noi vorremmo chiedere a questo proposito a voi, ascoltatori di Radio Alma, di dirci la vostra sull'argomento. Che ne pensate? Fate anche voi del volontariato, e chiediamo di iscriverci a colori.anima@gmail.com per condividere con noi le vostre riflessioni sulla solidarietà e il volontariato. Infatti, appunto, prima abbiamo introdotto i risultati di una ricerca molto importante della DOXA in Italia, il barometro della solidarietà, secondo cui appunto gli italiani preferiscono versare, fare beneficenza, e appunto i beneficiari preferiti sono proprio le organizzazioni non governative. In realtà un dato piuttosto particolare e che lascia fortemente discutere è il fatto che l'83% degli italiani ritiene prioritario destinare gli aiuti in favore di progetti di sviluppo nei paesi di origine degli immigrati, e sembrerebbe appunto che la spiegazione si cela nel fatto che in qualche modo aiutare i paesi di provenienza degli immigrati sia in effetti il mezzo più efficace per ridurre il flusso delle migrazioni verso l'Italia. Questo in realtà appunto lascia trasparire un tema che è quanto mai attuale, che è la paura del diverso. Paura del diverso che appunto non è soltanto la paura dello straniero, ma è una paura che sempre più si diffonde nella nostra società. E infatti in questa nostra società di oggi, dove sempre più spesso sembra che soprattutto in città non conosciamo nemmeno chi ci vive vicino, se sia qualcuno magari che è nato nello stesso nostro paese o qualcuno che magari ci è arrivato dopo, non sappiamo magari la persona che vive nella porta d'accanto, è proprio un argomento di cui parleremo prossimamente. Ai colori dell'anima, è un tema molto importante perché parla di, insomma, la solidarietà con quelle persone che fisicamente ci sono anche vicine, che magari vivono nella stessa città, nello stesso paese, invece che magari lontane, con cui spesso, come anche dimostrato dalla ricerca della FOCSIF, che alla fine gli italiani danno molto in aiuto, sono molto favorevoli alla solidarietà internazionale, però vorremmo anche poi vedere come si comportano diciamo nel loro mondo più vicino, di coloro che ci stanno intorno. Però per rimanere con il tema di stasera, invitiamo a scriverci, come ho già detto prima, scriveteci che cosa ne pensate, anche magari su questa questione di legare aiuti umanitari all'immigrazione. Secondo voi è una insomma ha un senso o è assolutamente da rifiutare come concetto? Diteci quello che ne pensate. E potete scriverci quindi a colori.anima@gmail.com. Nina Zilli su Radio Alma 101.9 FM, dove parliamo di solidarietà internazionale. Con me c'è Donatella al microfono. Buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato di quello che ne pensano gli italiani, abbiamo fatto sentire attraverso la nostra voce, la voce di padre John Patrick Ngoi Kasongo, un nome abbastanza difficile, l'ho detto già così tante volte adesso che mi viene ti quasi... sei esercitato bene. Mi sono esercitato bene, sì. E magari parliamo un attimino prima di concludere questo programma anche magari di esperienze nostre personali in questo campo, e di magari anche la nostra opinione sull'opinione diciamo che vige tra gli italiani. Che cosa ne pensi tu personalmente, Donatella, del fatto che gli italiani per esempio collegano solidarietà a immigrazione? Faccio una piccola riflessione. Credo che sicuramente è una situazione molto, è una questione molto complessa che va affrontata sicuramente da molti punti di vista diversi, perché credo che da un lato, come molte più volte hanno dimostrato, gli italiani hanno un grande cuore, e la causa l'aiuto alle persone più bisognose, ai paesi in via di sviluppo, è sicuramente parte della nostra cultura, dei nostri valori, diciamo, fondanti della nostra società. Mm-hmm. Questo però sicuramente in qualche modo si scontra poi e può essere anche mal interpretato con questo genere di risultati, dove appunto interpretare e dire semplicemente che gli italiani appunto aiutano per in qualche modo influenzare il flusso, i flussi emigratori sarebbe errato. Perché? Perché comunque da altri punti di vista può essere sicuramente anche interessante invece pensare di collaborare e aiutare le persone nei paesi appunto di origine, senza quindi in qualche modo facilitare o in qualche modo costringere le persone a lasciare le proprie famiglie, i propri affetti ed emigrare spesso lontano, lontanissimo, in cerca di opportunità lavorative altrove. Sì, e a questo proposito, tornando a padre Ngoi Kasongo, una cosa che mi ha colpito molto quando l'ho incontrato recentemente, come ho detto, a Bruxelles, e che parlava di questa voglia tra i giovani africani di farsi un futuro in Africa, di avere una possibilità di utilizzare le loro capacità e di metterle a buon uso per il futuro del continente. Invece spesso si trovano costretti, infatti, come detto, a fuggire il proprio paese di nascita. Allora da una parte ovviamente è importante aiutarli a magari esaudire questo sogno di poter costruire un futuro nel proprio paese, ma non dobbiamo fare questo magari prendere questo come scopo principale della solidarietà, e ovviamente sempre accoglierci, almeno questa è la mia opinione personale, accogliere quelli che vivono tra noi e che magari non sono nati nel paese dove vivono. Certo, infatti, credo che poi questo tema sia sempre più di attualità, perché appunto, come abbiamo introdotto all'inizio della puntata, veniamo da mesi di crisi a livello economico, che in qualche modo produce molti più screzi, aumenta i divari e quindi aumenta le cosiddette ineguaglianze all'interno della società. Tutto questo è chiaro che esaspera le situazioni di tolleranza e quindi anche le situazioni di convivenza con tutti coloro che non appartengono ad un determinato gruppo, e quindi un certo clima di intolleranza che poi sfocia in riflessioni di questo tipo. Sì, e magari ci sono anche degli esempi concreti che si possono citare in Italia. Ci sono stati anche recentemente, purtroppo in Italia, dei casi di intolleranza verso dei gruppi di stranieri, che sono esempi ovviamente che speriamo che non si ripeteranno più in futuro. Invece passiamo ancora ad un bel brano, un po' di bella musica. Sono le 21:49 e vi ricordo ancora l'indirizzo email, perché siamo alle prime puntate. È importante che sapete bene qual è il numero, l'indirizzo, che è colori.anima@gmail.com, per dirci la vostra e per magari giusto un attimo dirvi come utilizzeremo i vostri contributi. Va bene, è semplice, li faremo passare nelle prossime puntate. Adesso un bel brano, ascoltiamo Giuliano Palma and the Blue Beatles e Gino Paoli. Che cosa c'è? Giuliano Palma and the Blue Beatles. Sarà Giuliano Palma sarà a Bruxelles questo sabato 23 ottobre, e mi sbaglio, Donatella non viene questo sabato? Ma io ho sentito che c'è già stato sabato scorso. C'è stato sabato scorso, è stato a Bruxelles sabato scorso, pensavo che fosse questo sabato. Rimane comunque. Ci piacerebbe che tornasse, ecco. Così permetterebbe a tutti noi che non l'abbiamo ascoltato di apprezzarlo. Ecco, magari se avete sentito, se avete partecipato al concerto di Giuliano Palma, fatecelo sapere e dici com'è stato. Abbiamo con noi Roberto e qualche annuncio da farci sulla programmazione di Radio Alma. Buonasera a tutto il pubblico e agli amici dei Colori dell'Anima. Mercoledì, dopodomani sera, alle ore 21, ci sarà uno speciale sui 101.9 di Radio Alma, nel quale inviteremo due persone fantastiche. Sono gli autori di Spinoza, un libro serissimo. Si tratta di Stefano Andreoli e Alessandro Bonino, i quali presenteranno il libro alla Piola Libri, in Rue Franklin, se non sbaglio, 66. O giù di lì. O giù di lì, intorno alle 19. Più o meno giù di lì. Anche lì, fino alle 20. Poi si sposteranno in radio, daremo il cambio a Diego, che finirà la sua trasmissione come sempre alle 21, corrente alternata. E beh, in diretta qui dallo studio avremo gli amici di Brussellando, avremo Alessandra di Giro di Boa, avremo anche il sottoscritto, che tra l'altro è autore, attenzione, qui attenzione, si rivela qualcosa, è coautore di questo libro, un granello di sabbia tra le righe di questo simpaticissimo libro. Gli autori quindi Andreoli e Bonino in diretta qui a Radio Alma 101.9, mercoledì sera alle 20 ottobre alle ore 21. Non mancate allora. Da non perdere, infatti. Grazie Roberto. Grazie a voi. E visto che siamo agli annunci, magari parliamo un attimo anche di lunedì prossimo, quando qui in studio ci sarà il primo novembre? No, ancora no, manca una settimana. Lunedì prossimo ci sarà Rosanna in studio con voi. La settimana dopo invece il primo novembre e i morti e... È un bel programma sui detta morti. Così suona un po', come dire, vabbè, diciamo che il luogo è il modo comune di riferirsi a questa festa. Allora, vi ringraziamo tutti per essere stati insieme a noi in questa puntata dei Colori dell'Anima. Speriamo appunto di ritrovarvi la settimana prossima. Un caro saluto da Donatella. E anche da me, vi ricordo anche una cosa che non vi ho detto ancora, radioalma.be, e il sito ovviamente di Radio Alma, e pastoraleitalianabruxelles.com, dove potete trovare più informazioni anche su questo programma. E vi lasciamo con la sigla e un tocco di Africa, e a risentirci presto. Buona settimana. I Colori dell'Anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. Mancia!